Lisa ci ha recuperato non un soccorritore, ma non due soccorritori, intera. Ma tutta la squadra di soccorritori. Allora, prego, prego, prego, venite, no, venite. Anzi, aspetta, parte. Facciamo così, vado di là io col microfono. Che è meglio. Davide, intrattieni il pubblico. Sì, sì, io intrattengo, parlo del fatto che siamo qui allo stadio della Canoa e Porè di Active Days e qui in diretta su www.radiobawalla.net, ascoltabile dal web. Vi abbiamo raccontato tante cose, ci sono stati tanti ospiti, ma oggi, cioè ora, abbiamo un ospiti, degli ospiti particolari. Sono i soccorritori. Come si diventa soccorritore? Noi siamo volontari della Croce Rossa Italiana, di vari posti d'Italia, non siamo tutti di Ivrea, e per diventare soccorritore in ambito fluviale devi prima di tutto essere volontario in Croce Rossa, quindi un percorso formativo abbastanza lungo. Da lì puoi diventare operatore polivalente soccorso in acqua, che equivale più o meno al brevetto di bagnino. Da lì puoi fare ulteriori specializzazioni, come quella per esempio nel soccorso acque vive, che è quella che facciamo noi qua oggi. Acque vive, quindi stiamo parlando di... Le chiamano acque vive perché ho acque bianche, soccorso fluviale. Soccorso fluviale. Sono le acque mosse, bene, non bene. Le piscine. O... Quindi oggi vi state divertendo? Sì, l'importante è quello. Sì. Questo è l'importante, perché è una bella giornata di sole, c'è veramente un clima eccezionale e non è successo niente. No. Benissimo, benissimo. Nell'eventualità, che cos'è che succede di solito? Noi recuperiamo la persona che eventualmente stappa dalla canoa. Voi li vedete spesso sotto sopra che provano a fare l'eschimo e cercano di girarsi e tornare in posizione. L'eschimo, per chi ascolta da caso, la manovra. L'eschimo è la manovra per portare la canoa da un verso all'altro, quindi da sotto sopra al verso giusto per poter pagare. Okay. Quando e se non riescono a fare questa cosa e quindi stappano, quindi tolgono il paraspruzzi e escono dalla canoa, ci buttiamo e gli lanciamo una corda, ci buttiamo e gli aiutiamo a rientrare a riva. È chiaro. Ma questo tipo di atleti tendenzialmente fa tutto da solo. Sono autonomi. Sono molto bravi, molto, molto autonomi. Bene, bene, e bene. E molto abituati a fiumi ben peggiori di questo. Perché oggi com'è il fiume? Noi lo vedevamo e c'è parecchia molto acqua, agitato, con molta acqua. C'è parecchia acqua, da una parte più facile, perché non prendi tante botte se dai il giro. Perché stai più in alto rispetto sì, al fondo. Sì. E poi, vabbè, c'è qualche rullo che tiene un po', ma per loro bazzecole. E i rulli... I rulli. Dici, cosa sono però dovresti intervistare i canoisti per il gergo tecnico del film. Vabbè, ma li stiamo intervistando. Sì, ma parlano russo, inglese. Proviamo l'italiano. Voglio vedervi. Il rullo è rullo. Quando l'acqua, una parte dell'acqua passa sotto e una parte torna su se stessa e fa un rullo. Visto in orizzontale fa un rullo. Ho capito, ho capito. Rulli che tengono, nel senso che fai la lavatrice, cioè stai lì e continui a girare lì nel rullo, tranquillo. Un po' bevi, un po' vai sotto, un po' bevi, un po' vai sotto. Non è una bella sensazione. No. No, se non lo fai divertendoti e senza l'attrezzatura idonea non è una bella sensazione. Potrebbe anche diventare uno sport con l'attrezzatura idonea. Sì, lo è. Con l'attrezzatura idonea tutto diventa fattibile, sì, sì. Corretto. O quasi. Benissimo. Era un po' più impegnativo ieri e l'altro ieri su Pombosè. Il fiume era un po' più difficile, un po' più cattivo. E neanche in quel caso vi è capitato di fare qualche recupero sì, o qualche recupero sì, l'avete ieri fatto? E l'altro ieri abbiamo recuperato 5-6 persone in due gare diverse. 5-6 persone, è andato tutto bene? Per fortuna sì. Benissimo. Allora, complimenti. Grazie. Avete fatto un ottimo lavoro. Anche a voi. Che dire, questo è quanto. Noi vi facciamo sentire un altro pezzo di musica. Ah, e ci fa... Diventate volontari della Croce Rossa. Facciamo un appello. La Croce Rossa fa qualunque cosa. Ok. Dal soccorso fluviale all'assistenza agli anziani, i giochi con i bambini, educazione alla salute, all'alimentazione, di tutto. Bene, immagino che ci sarà... Teniamo i nonni, facciamo attività sociali con i nonni, li portiamo a spasso nel parco, come adesso. Benissimo, benissimo. Grazie a voi, ringraziamo i volontari della Croce Rossa del soccorso fluviale. E ci ascoltiamo un altro brano in Creative Commons qui allo stadio della Canoa. Benissimo, lo presentiamo dopo. Sentite un po' questo brano di musica Creative Commons. A dopo. My baby is